tempo di sport. Amici di Radio 24, buon pomeriggio da Massimo Callegari, Marco Lombardo in redazione, Fabio Cantadori in regia per questo appuntamento nel giorno della Sampdoria che cerca il primo assalto alla Champions a Brema contro un avversario senza il suo giocatore più noto e di qualità, Mesut Özil, passato ieri al Real Madrid in via definitiva e ufficiale per una cifra tra i 15 e i 18 milioni. L'attesa della Sampdoria, l'attesa per Antonio Cassano, l'uomo su cui punta Domenico Di Carlo, senza dimenticare che Cassano è comunque il faro di una squadra che deve vincere e imporsi con la sua organizzazione. Beh, sicuramente erano abituati a giocare con Özil, che è un grandissimo giocatore, però ci sono altri due giocatori che possono sostituire Özil, che sono Hunt e Marin, che hanno grandissima qualità tecnica e velocità per caratteristiche. E se dovessero cambiare comunque modulo, ma sono anche abituati perché hanno fatto anche 4-4-2, non è un problema. Penso che sia un problema più di atteggiamento che magari di un solo uomo in campo che possa cambiare la partita. Questo era Di Carlo sul Werder Brema senza Özil e sulle eventuali attitudini della squadra tedesca con Schaff e i suoi che hanno insistito sulla Samp e sulla Italia calcistica eternamente difensiva, uno stereotipo molto lontano, quasi come quello dei tedeschi che non mollano mai e della Germania che gioca male ma vince sempre. Stereotipi legati al calcio di un tempo, quello che peraltro il Werder Brema ha vissuto con grande gloria, imponendosi spesso contro gli italiani in casa senza perdere mai in 13 precedenti europei, anche se una volta il Milan aveva praticamente vinto lì nei quarti della Coppa dei Campioni con Arrigo Sacchi in panchina. Rijkaard segnò, ma il gol non venne assegnato dall'arbitro portoghese Dos Santos. Tra poco il primo ospite, le vostre telefonate all'800 24 0024, i messaggi sms al 349 238 6666. Ecco però cosa si aspetta Di Carlo da Antonio Cassano. Noi da lui ci aspettiamo un grandissimo aiuto, non solo per l'esperienza internazionale ma anche per le qualità tecniche che nel corso della partita Cassano può sempre cambiare dal momento all'altro quello che è l'equilibrio. Questo era dunque Di Carlo sul suo fantasista e leader. Saluto un commentatore, compagno di viaggio ormai abituale in questi anni per me a Premium Calcio. Bentornato ad Aldo Serena. Buongiorno a tutti. Buongiorno Aldo, è una serata molto importante per la Sampdoria in questo secondo appuntamento con i playoff di Champions di andata. Già ieri si è capito che non è facile per nessuno, non si è ancora capito in realtà chi è la vera favorita e se c'è una favorita tra Werder Brema e Sampdoria. Cosa ne pensi? Ma io penso che per la Sampdoria il Werder Brema sarà un osso duro. Per la forza fisica che hanno i suoi giocatori, per lo spirito, non è una squadra che va in avanti con decisione, ha attaccanti potenti. È certo che mancherà oramai Özil, che è passato al Real Madrid, però come ho sentito bene Di Carlo, Hunt e Marin hanno quella rapidità, hanno caratteristiche un po' diverse dei compagni che sono tutti molto alti, molto forti fisicamente. Però secondo me la Sampdoria deve cercare questa sera di ribaltare l'azione con velocità. Spesso il Werder Brema si sbilancia in avanti, è una squadra molto forte fisicamente che però concede molti spazi, e quindi io penso che sembra banale, ma Cassano con la sua inventiva, con la sua rapidità possa essere realmente il giocatore che può mettere in crisi il Werder Brema quando proprio andrà in avanti e nei ribaltamenti di fronte. In molti hanno sottolineato il fatto che Cassano abbia segnato gol anche prestigiosi in Champions con la maglia della Roma, all'Arsenal e anche al Real Madrid, mai però decisivi per un passaggio del turno. Per qualcuno addirittura questa sera e la settimana prossima, per Cassano ora o mai più, per imporsi a livello assoluto ed essere un fuoriclasse in maniera concreta. Sei d'accordo che sia davvero un momento chiave della sua carriera o stiamo esagerando giornalisticamente con queste valutazioni? I toni sono un po' caricati perché i media fanno il loro lavoro, però è vero che Dopo essere stato escluso dalla nazionale da Lippi in maniera clamorosa, ora Prandelli sta puntando su di lui, gli ha dato i galloni di leader e quindi con la Sampdoria, secondo me, per affrancarsi potrebbe e dovrebbe, secondo me, fare un cammino di Champions quantomeno medio-lungo. Io penso che la Sampdoria non abbia, ecco, velleità di vittorie della Champions League, però insomma, passando questo turno potrebbe poi con il tempo e con l'attitudine di Carlo, che è un lavoratore sul fondo, trovare la compattezza e anche le qualità che con Del Neri la Sampdoria aveva messo in campo molte volte. Se dovessi dirlo ora, chi è il centravanti della nazionale? Pazzini, che questa sera cerca di riconquistarsi subito un ruolo di prestigio dopo l'ottima annata precedente, anche se Prandelli poi non l'ha chiamato nella sua prima in nazionale. Gilardino, che è arrivato devastato dal mondiale che ha giocato da titolare, non solo lui, peraltro coinvolto nella disfatta azzurra. Amauri, che ha debuttato con Prandelli, o Borriello, che Lippi ha prima chiamato poi escluso? Guarda, io stimo molto Pazzini, anche lui oramai sta entrando nella piena maturità della sua carriera, ha doti non comuni, sa fare un po' tutto, è bravo nei colpi di testa, è abbastanza veloce, ha una buona tecnica, calcia bene al volo. Io penso che Pazzini, nonostante abbia un rapporto in chiaroscuro con Prandelli, lo stesso vale forse anche per Gilardino adesso, sì, sia il giocatore più adatto a fare il titolare nella nazionale azzurra, anche se Borriello secondo me è sempre lì pronto a insidiarlo. A Mauri anche lo vedo un po' in ritardo, anche perché non riesce a dare continuità alle sue prestazioni con la Juventus, gioca in maniera altalenante, a volte sembra di essere ritornato quello di Palermo, poi invece fa delle regressioni abbastanza vistose. Così insomma, io penso che Pazzini sia il giocatore più adatto. Hai parlato di Amauri, tra poco ci torneremo perché domani tu sarai a Graz per Mediaset Premium un calcio, per raccontarci questo secondo appuntamento di preliminare di Europa League della Juventus. Rimaniamo ancora un attimo sulla Sampdoria per capire se effettivamente confermi, avendolo visto in tutti questi anni in varie avventure europee, che il Verde Bremen è una squadra che, avendo mantenuto da parecchio tempo la stessa guida tecnica, al di là dei cambi anche importanti di giocatori, c'era Ozil, prima Diego, c'è stato anche Klose, è una squadra che ha comunque quel tipo di gioco, quel tipo di identità ben definita. Sì, è una squadra che secondo me può mettere in crisi qualsiasi formazione, perché ha, si trova la serata e le combinazioni giuste, e ha una forza fisica ed è travolgente anche proprio nello spirito di gioco. Pizarro e Almeida sono due giocatori molto alti, forti fisicamente, che però hanno anche una discreta tecnica, hanno in Boroschi un giocatore che è anche lui a metà campo travolgente, una squadra che si butta in avanti a volte non guardando alla tattica, all'equilibrio, e in questo spero che la Sampdoria questa sera possa realmente mettere l'ipoteca del passaggio a poi alla fase a gironi, cercando di in maniera repentina di modificare l'atteggiamento difensivo in quello offensivo, sfruttando Cassano, sfruttando Pazzini, con i lanci di Palombo, che è un giocatore appetito anche dalla Juventus, come è stato scritto in molti giornali. Eh sì, è stato un obiettivo lungo di mercato anche di Prandelli, quando era a Firenze, non a caso lo ha subito schierato nella sua prima in nazionale. Aldo Serna rimane con noi ancora per qualche minuto, tra un attimo c'è il traffico, aspetto naturalmente anche le vostre considerazioni all'800 24 0024 e poi messaggi sms al 349 238 6666. Tra poco torniamo per parlare anche un po' di Europa League, perché domani sera giocano Juventus, Napoli e Palermo, ed è un appuntamento importante anche per il ranking, di cui si parla molto in queste ore relativamente alla Sampdoria, a volte dimenticando che comunque i punti che si ottengono in Europa League e in Champions League sono gli stessi, c'è lo stesso valore di punteggio tra le due competizioni, dunque non va assolutamente sottovalutato l'impegno in Europa League, anche perché quest'anno ci sono squadre che possono davvero arrivare in fondo, che ci rappresentano. Besiktas, Paris Saint-Germain, Bayer Leverkusen, CSKA di Mosca, Feyenoord, Galatasaray, poi ancora Sporting Lisbona, Liverpool, Celtic, Borussia Dortmund, sono solo alcune delle squadre che domani sera giocheranno il preliminare di Europa League. Il Besiktas ha già battuto l'Helsinki per 2-0 e ha dunque avviato il turno preliminare della seconda competizione continentale. Ci sono in campo domani sera il Palermo in casa con il Maribor, inizio alle 20:30, poi alle 21 Napoli contro gli svedesi del Helsborg al San Paolo, per vendite caldissime nelle due squadre del sud, e la Juventus va invece a Graz sul campo dello Sturm Graz. Tra poco anche le vostre telefonate all'800 24 00 24, messaggi sms 349 238 6666. Domani sera però a Graz per Mediaset Premium Calcio ci sarà Aldo Serena a commentare questa partita della Juventus, che già hai visto e seguito, Aldo, nelle prime gare di questa stagione, ufficiali e ufficiose. C'è uno scetticismo che non è tanto lontano in proporzione inversa all'ottimismo pazzesco che c'era l'anno scorso per la Juventus. Cosa ne pensi? Ma io ho seguito abbastanza attentamente da vicino la preparazione dei bianconeri ed anche le prime amichevoli. Mi passo che De Neri avesse lavorato molto attentamente in profondità sull'equilibrio difensivo. Lo scorso anno la Juventus aveva subito tantissime reti, come forse non aveva mai fatto negli ultimi 30 anni, e i movimenti d'assieme, a mio avviso, cominciavano ad essere quelli giusti, fino al trofeo team, dove invece lì ho visto una Juventus abbastanza poco equilibrata, una Juventus non rapida nell'aggressione all'avversario sulla palla, non attenta nella fase difensiva, e ho anche pensato che forse c'erano stati dei carichi di lavoro, perché non poteva essere così un cambio repentino rispetto a qualche giorno prima. Avevo visto la Juventus sotto il profilo difensivo molto quadrata. Chissà dove sta il giusto giudizio. Io penso che De Neri stia lavorando bene. Ha una squadra che è incompleta. Marotta sta cercando in vari modi di perfezionarla, di accontentare il tecnico, soprattutto nella fase di impostazione. È una Juventus che un po' balbetta, perché a metà campo Felipe Melo, che è un giocatore sul quale bisogna assolutamente puntare perché non ci sono alternative, non può venderlo la Juventus. Sissoko ha quelle caratteristiche ben definite, Marchisio è in fase di involuzione perché dopo un mondiale non fatto bene, probabilmente anche la sua giovane età così lo sta un po' condizionando, deve riprendere quel discorso di entusiasmo, di voglia anche proprio nel giocare la palla. Lui ha le caratteristiche tecniche per poter essere un buon giocatore a metà campo, anche negli inserimenti, e poter dare una mano anche in fase offensiva, ma per adesso si è un po' perso. Quello è proprio la fase cruciale, secondo me, di impostazione. Ne stanno soffrendo anche gli attaccanti. È vero, peraltro oggi la stampa riportava addirittura discussioni non pesanti, ma comunque da rilevare, di mercato, relative a Marchisio, che pretenderebbe un aumento contrattuale, e addirittura per bilanciare la situazione i suoi agenti avrebbero valutato l'ipotesi di proporre il giocatore all'Inter, che è la rivale storica dei bianconeri, ed è questo lo stimolo maggiore sicuramente per provare a stimolare appunto la società bianconera a mantenere Marchisio alla Juventus. Abbiamo parlato prima di Ozil, che è stato l'erede di Diego, che era arrivato in Italia con aspettative notevoli, sia io che Aldo Serena, che l'avevamo seguito addirittura lui anche più volte dal vivo allo stadio, e l'impressione è sempre ancora più veritiera quella che si vede rispetto a quella che si ha in televisione. Eravamo convinti che potesse essere un ottimo acquisto per la Juventus, in realtà ha avuto delle difficoltà. In che momento lo vedi? E tu, mi sembra, anche sulla Gazzetta dello Sport la settimana scorsa a questo punto avevi sollecitato la sua cessione. Ma io penso che De Neri non potrà certo cambiare il suo modulo di gioco. Il 4-4-2 sarà il tema della stagione, e con le caratteristiche di Diego penso che la Juventus potrà avere delle difficoltà, anche se nel trofeo team ha dato così l'impressione, non solo per il gol effettuato, di avere molta voglia di far vedere che non è un giocatore finito, che è un giocatore che può adattarsi al calcio italiano. Non sento più Aldo Serena. La Juventus, eccolo. La Juventus penso abbia necessità di una seconda punta che abbia sì tecnica, che abbia, ma che abbia anche un legame con il gol più stretto. Diego non è un bomber, non è un giocatore che sa mettere la palla dentro, è un trequartista classico, quindi io penso che la Juventus dovrebbe sfruttare questo momento positivo del giocatore per così portare a casa tanti soldini da poter reinvestire. L'ultima cosa ti chiedo, Aldo, poi ti saluto, c'è anche un ascoltatore in linea in attesa dal quale andiamo tra un attimo, Italo dalla provincia di Como. È più bravo o sembra più bravo Ozil adesso che lascia il Werder per il Real di quanto sembrava o era bravo Diego quando ha lasciato il Werder per la Juventus? Ma devo dire che entrambi erano validi in quell'organizzazione di gioco, in quel contesto. Diego per certi versi, Ozil con altre caratteristiche. Io penso che Ozil sia un buonissimo giocatore, non è ancora un top, non ha ancora completato la sua maturazione, ha ottime qualità, ma non credo avrà vita facile al Real, perché anche lì sono quelle società che richiedono tanto, che vogliono e pretendono anche giustamente grandi valori e i tifosi alla stessa stregua. Quindi per Ozil non credo sarà facilissimo l'inserimento a Real. Grazie Aldo Serena, buon viaggio a Grazia e ci vediamo prestissimo. Grazie ad Aldo Serena, con un saluto per lui anche da parte di un tifoso del Torino che ricorda con emozione quel gol segnato al 90esimo in un derby rimasto famoso in questo caso soprattutto per i tifosi del Toro. Quello che mi colpisce sempre è che Aldo Serena ha giocato in tutte e quattro le squadre delle città di Milano e Torino e da tutti i tifosi è stato ed è ancora ricordato e apprezzato con grande piacere. Andiamo dal primo ascoltatore di giornata all'800 24 00 24, le vostre telefonate, i messaggi sms al 349 238 6666. Ci ha chiamato Italo dalla provincia di Como, buon pomeriggio. Buongiorno. Prego. Veramente avevo chiamato ieri per la questione Balotelli, Mourinho. Sì, va benissimo, è sempre di attualità. Ecco, guardi, certamente l'anno scorso stavamo parlando più o meno in stessi termini per Ibrahimovic, 2 anni fa per Mancini, ecco, speriamo che vada la stessa maniera, voglio dire, che questi qua siano superino i loro pur bravi e carichi di risultati predecessori. Ma lei l'avrebbe ceduto Balotelli? Sia Mourinho che Balotelli hanno sentito la necessità di parlare dell'Inter, bene, male, polemici. L'Inter fino adesso non ha ancora sentito la necessità di parlare di loro. Quindi dice che a loro manca l'Inter più di quanto all'Inter manchino loro? Non lo so se gli manca o se non gli manca. È che loro hanno sentito la necessità di parlare dell'Inter. L'Inter, al di là di fargli gli auguri, credo sinceri, dopo non ha più sentito la necessità di parlare di loro, quindi l'Inter sta guardando avanti, neanche nel trofeo team abbiamo visto che ha una schiera di giochi che permetta uno più bravo dell'altro. Mi spiace che non c'era Serena, io Serena lo conosco da quando era a Como. Ah giusto, sì, è vero. Che trovava molto ostracismo da parte degli anziani del Como, ma lui con la sua caparbietà ha fatto la carriera che ha fatto. Senta, io lo confinavo col capo di Orsenigo e vedevo sto ragazzino, mi incazzavo con quelli così di espressione che lo ignoravo, lo prendevano un po' in giro, avevo 18 anni. Senta, Italo, mi dice però sei convinto che Benitez sia la scelta giusta per l'Inter? Guardi, ovviamente non lo so, dal punto di vista tecnico penso sì, è chiaro che mi manca la carica di comunicatività. Ah, le manca allora. È chiaro. Però voglio dire, speriamo che abbia altre qualità e che mantenga l'Inter in alto con i risultati. Bene, bene, grazie a Italo dalla provincia di Como con queste considerazioni su Mario Balotelli, la cui conferenza stampa di presentazione abbiamo seguito ieri con questo richiamo murignano, peraltro, di Balotelli, con la sua frase in inglese in risposta a una domanda dei giornalisti, un po' come fece Mourinho sia in Inghilterra quando arrivò al Chelsea, sia in Italia quando è arrivato all'Inter. Inter che, avendo vinto la Champions League, affronterà l'Atletico di Madrid nella Supercoppa Europea venerdì 27 agosto, alla vigilia dell'inizio del campionato, e poi nel mese di dicembre avrà un appuntamento storico, prestigioso, con quella che una volta era la Coppa Intercontinentale, che poi è oggi il Mondiale per club, con una formula differente, ma con un appuntamento finale che sinora non ha mai tradito le previsioni e le aspettative, che è la finale tra Europa e Sud America. E dunque la Coppa Intercontinentale, oggi Mondiale per club, propone all'Inter un avversario che i nerazzurri già conoscono, perché la rivale arriva dalla Coppa Libertadores, l'equivalente della Champions League in Sud America. Quest'anno però la finale non è tra due squadre sudamericane, ma tra una brasiliana, l'Internazionale di Porto Alegre, e una messicana, una nordamericana dunque, che appartiene come confederazione alla CONCACAF, che ha già una sua rappresentante al Mondiale per Club. Pertanto, indipendentemente dall'esito della finale della Coppa Libertadores, l'Internacional sarà la rivale dell'Inter. Internacional che ha vinto la partita di andata della Coppa Libertadores 2-1 in Messico contro Las Chivas di Guadalajara, giocando una buona gara anche se sul campo sintetico, in una situazione dunque inusuale. Questa notte si gioca la finale di ritorno al gigante, al Beira Rio di Porto Alegre, e ce la racconterà Stefano Borghi su Sport Italia dalle 3, collegato con noi, e vorrei sapere, anche così richiamando un po' la mia esperienza, come vivrà questa giornata innanzitutto, poi ci parlerà anche dell'Internazionale, di come l'Inter deve temere, se deve temere questa squadra. Però per arrivare alle 3 è lunga, come si vive l'attesa? Stefano, bentornato, buon pomeriggio. Ciao Massimo, ben ritrovato, un saluto a tutti. E beh sì, è lunga perché bisogna arrivare alle 3 del mattino, però insomma queste sono partite che si preparano un po' da sole. Un grande appuntamento che assegna la Coppa Libertadores, non è la mia prima finale, per cui insomma l'emozione del debutto l'ho un po' smaltita. È una giornata in cui magari si pensa anche un po' a quelli che sono stati i temi passati di questi grandi appuntamenti, si va a rivedere la storia, anche perché l'Internazionale comunque alla sua seconda finale di Libertadores in 4 anni, la Chivas non era mai arrivata a questo punto, il Messico non ha mai vinto il più grande calcistico del continente americano, per cui insomma si cerca anche un po' di fantasticare, però poi alla fine arriva presto il momento del calcio. Rimani con noi perché adesso c'è la borsa in diretta, poi torniamo per parlare un po' di questi avversari dell'Inter che hanno perso un paio di giocatori in vista del Mondiale per Club, ma rimangono comunque un avversario da affrontare e da valutare con grande attenzione. E poi parliamo un po' anche dei giovani giocatori, soprattutto argentini, che stanno per arrivare in Italia per il prossimo campionato. All'800240024 c'è Davide da Mantova, in collegamento con noi anche Stefano Borghi, collega amico di Sport Italia, che questa notte racconterà la finale di ritorno della Coppa Libertadores 2010 alle 3 a Porto Alegre. Internacional Las Chivas Guadalajara, 2-1 per i brasiliani all'andata. Davide da Mantova, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi, salve. Prego. Beh, io volevo un'opinione da voi in base al caso Battista. Perché visto la precarietà fisica di Adriano e vista l'evanescenza di Menez, non vi sembra un po' azzardato mettere sul mercato subito la bestia? Ma per me un po' sì, però forse è anche l'unico giocatore che ha un po' di margine sul mercato e un minimo di richieste a disposizione tra quelle della Roma. È anche vero che Battista, come in tutte le sue altre esperienze nei club prestigiosi in cui ha militato in Europa, Real e Arsenal, è partito bene e poi è mancato molto nella fase di consolidamento del suo valore. Cosa ne pensi, Stefano Borghi? Ma io credo che Batiste sia un giocatore un pochino sottovalutato allo stato attuale delle cose, soprattutto anche perché la Roma non ci ha ancora lasciato capire fino in fondo quale sarà la conformazione tattica effettiva poi del suo attacco. Per cui un giocatore come Batiste, che può giocare in tante posizioni diverse, secondo me può risultare molto utile. Certo è che, come hai detto tu, è forse il giocatore che ha maggiore margine sul mercato fra quelli che potrebbero essere ceduti, per cui forse è una mossa di questo tipo. Io personalmente Batista lo terrei, poi però non sono io che faccio il mercato. Già che ci siamo, Adriano, l'hai seguito parecchio l'anno scorso nel campionato brasiliano e anche nella Coppa Libertadores, l'avresti riportato in Italia? Alla Roma? Ma a Roma? È un discorso un pochino delicato, nel senso che sicuramente Adriano sa che questa è la sua ultima occasione per poter tornare ad essere un giocatore di respiro internazionale, per cui dal punto di vista della motivazione credo che insomma dubbi non ce ne possano essere. Io soprattutto in Coppa Libertadores negli ultimi tempi l'avevo visto lontano da quello che deve essere un atleta in grado di dare un contributo importante a questo tipo di livelli, un giocatore pesante, un giocatore anche un po' egoista. È chiaro che per quelle che sono le dinamiche del calcio sudamericano e brasiliano in particolare, un giocatore di grande stazza e comunque in possesso dei colpi che Adriano è uno che segna sempre, di conseguenza se un attaccante segna viene considerato positivo. Io credo che ci sia da fare un lavoro fisico prima ancora che mentale su questo giocatore molto molto considerevole, perché ancora adesso l'ho visto negli allenamenti, mi sembra visibilmente sovrappeso. Poi ripeto, se davvero questo ragazzo si mette in testa di voler fare il professionista, perché comunque è un 82, ha 28 anni, ha ancora la possibilità di potersi proporre sui massimi palcoscenici, se lui si mette in testa di farlo, allora a questo punto possiamo aspettarci anche una sua resurrezione. Però per quello che è stato il suo comportamento anche dopo il ritorno in Brasile, secondo me insomma la scommessa è abbastanza ardita. Anche perché Adriano giocava nel Flamengo con Wagner Love, che era dei due quello che si muoveva di più. Entrambi erano attaccanti centrali, però Wagner Love era quello che aiutava anche un po' di più in copertura. A Roma Totti non farà mai il movimento che faceva Wagner Love al Flamengo, e dunque sarà difficile poi che Adriano trovi la condizione ideale in maniera rapida per evitare di ripetere un altro caso Toni, ovvero un giocatore che poi è troppo simile a Totti perché possono giocare entrambi insieme. C'è Andrea dalla provincia di Milano, l'800240024. Buon pomeriggio Andrea, prego. Sì, buongiorno, un saluto a tutti. Io volevo intervenire, volevo approfittare della presenza di Borghi, perché lo seguo su Sport Italia, so che è un grande competente di calcio inglese. Eh sì. Volevo chiedergli, io sono appassionato della Serie B, della Championship, e volevo sapere secondo lui quali erano le squadre quest'anno con più possibilità. Forte, ok. Sì, esatto. Stefano, ho visto che poi in questi giorni già c'erano partite fantastiche, Nottingham-Leeds, cose di storia. Esatto, Leeds Derby County alla prima. Un saluto ad Andrea. E grazie. Allora, come ben sai, visto che sei un appassionato di questo campionato, è impossibile dire oggi come oggi quali sono le squadre che possono essere favorite per la promozione, ma probabilmente sarà impossibile dirlo anche a marzo, ad aprile, perché negli ultimi anni abbiamo visto davvero dei ribaltoni e delle sorprese, oltretutto con il mercato ancora aperto e con il fatto che da quest'anno la Premier League richiede 25 giocatori over 23 registrati per la prima parte di stagione e gli altri non possono giocare. Io credo che le squadre di Championship faranno grandi cambiamenti in quest'ultima settimana abbondante di mercato, per cui oggi la situazione è ancora assolutamente tutta da verificare. Quello che abbiamo visto è che sarà secondo me un campionato più equilibrato di quello dello scorso anno, dove Newcastle e West Bromwich Albion sono partite, erano le squadre più forti e sono arrivate. Quest'anno vedo grande bagarre, grande equilibrio fra le candidate alla promozione. Oltretutto quelli che erano i nomi secondo me più interessanti in altre di partenza sono invece partiti molto male. Il Nottingham Forest, che ha fatto un solo punto ed è una squadra che sta ancora un po' pagando le scorie della mancata promozione dell'anno scorso. Il Middlesbrough, che ha fatto un mercato esaltante, ha preso Chris Boyd dei Rangers, credo che sia stato il colpo sicuramente dell'anno, forse del decennio per questo campionato, e invece non è ancora riuscito a vincere. Mi ha sorpreso sinceramente l'avvio del Millwall. due vittorie contro due squadre molto ben attrezzate, 7 gol fatti, 0 subiti per una squadra neopromossa, insomma è tanto, però io credo davvero che insomma in questi mesi possiamo goderci lo spettacolo che offre questo campionato, vedere come le squadre si sviluppano, poi per dire chi andrà su o chi si salverà, comunque quali saranno, ci prendiamo un po' di tempo ci prendiamo un po' di tempo per forza proprio anche per le caratteristiche di questo torneo. Mi piace che sei già bello carico. C'è Laura da Roma, buon pomeriggio, prego. Sì, buonasera, buonasera, una cortesia. Sì. Vorrei chiedere al conduttore che cos'è che la faceva tanto sogghignare dal fatto che Adriano sia venuto alla Roma, la sentivo molto ironico. No, sa perché? No, sa perché? Perché Roma è una città per un giocatore non facile. E per un giocatore come Adriano, che dal punto di vista della gestione sua, personale, ha avuto le difficoltà anche in altri ambienti, non che Milano sia facile, tutt'altro, che è tornato a casa Rio de Janeiro perché voleva stare con la famiglia, perché voleva sentirsi vicino alla sua famiglia, voleva sentirsi più tranquillo, aveva avuto problemi molto seri a Milano, non penso che sia un ambiente facile per lui. Per quello ironizzavo, o comunque mi faceva sorridere il fatto che fosse una sfida, secondo me, clamorosa quella che la Roma si è presa e quella che lo stesso giocatore si è preso. Cosa ne dici? La predica fatta da chi non ha saputo gestire Balotelli mi fa abbastanza sorridere a me, insomma. Perché? Chi è che non l'ha saputo gestire? Beh, l'Inter l'ha mandato via Balotelli, no? Beh, cosa c'entra questo? Ah, come cosa c'entra? Ha venduto un giocatore di 19 anni, 20 anni, che è il futuro fenomeno del calcio italiano, o sbaglio? Ho capito, mica l'ho venduto io, mica l'ho venduto io. Appunto. L'Inter, che mi pare che sia una società di Milano, sbaglio. Beh, cosa c'entra questo? Lei fa sempre il discorso su Roma, sulla Roma. No, io ho detto che anche Milano non è facile, infatti Adriano ha avuto delle difficoltà pazzesche qui. Oh no. Infatti anche lì ci sono pieno di discoteche, di foto di giocatori che escono dalle discoteche. Certo, è vero, certo, assolutamente sì. Infatti. Va bene, allora siamo sullo stesso piano. Certo, sì, ma infatti anche se fosse tornato, io l'ho detto l'anno scorso la stessa cosa, anche quando il Milan si diceva, poi nessuno è stato deciso a definire la trattativa come appena iniziata, ma l'anno scorso si diceva che Adriano forse sarebbe potuto tornare in Italia al Milan per provare una rivincita ancora e magari anche prendersela nei confronti dell'Inter, che peraltro era la squadra che l'aveva acquistato, poi tenuto, poi dato in prestito, poi riacquistato e cercato di rilanciare dopo che aveva già avuto dei problemi. E ritenevo che l'anno scorso fosse comunque un problema anche per il Milan acquistare Adriano. Questo lo ritengo anche per la Roma, non solo dal punto di vista ambientale, ma a maggior ragione dal punto di vista tecnico, come ho detto prima, perché mi sembra che sia un giocatore incompatibile con Totti per le sue caratteristiche, per quelle di Totti e per il modo in cui ha giocato negli ultimi anni. Visto che stiamo parlando di Brasile, torniamo dopo questo confronto, questa bagarre sull'asse Milano-Roma, torniamo in Brasile con Stefano Borghi, perché appunto l'International di Porto Alegre è già sicura di giocare il mondiale per club. Ho spiegato in precedenza il motivo che determina questa soluzione tutta molto sudamericana. C'è anche da aggiungere che le messicane l'anno scorso per la febbre suina erano state escluse agli ottavi dalla Coppa Libertadores e quest'anno le stesse due squadre sono state reinserite dagli ottavi nel torneo senza giocare la prima fase, con caos vari che poi hanno portato comunque Las Chivas ad ottenere il passaggio alla finale. Innanzitutto, Stefano, siccome comunque è una finale di Coppa Libertadores, l'Internazionale ha vinto 2-1 all'andata, ma non valgono i gol in trasferta, quindi la gara è aperta. Esattamente, per la finale si mantengono le regole antiche, tra virgolette, perché ormai la competizione ha preso il format europeo, quindi gol in trasferta fino alle semifinali. In finale si valgono uguali gol segnati in casa e in trasferta, oltretutto in caso di punteggio aggregato pari si fanno i supplementari e poi i calci di rigore, potrebbe essere una notte molto molto lunga. Al di là di questo, allora, in Brasile io ho notato che sulla stampa, e credo anche nella maggior parte dei tifosi dell'Internazionale, ci sia già una sorta di rilassamento. Questa Coppa sembra già essere arrivata in bacheca. In realtà Celso Roth, l'allenatore dell'Internazionale di Porto Alegre, ha voluto alzare le mani, alzare l'attenzione, ha detto non c'è niente di scritto, perché comunque la Chivas di Guadalajara, che oltretutto nelle situazioni in cui appariva come la squadra sfavorita e ormai ad un passo dall'eliminazione, ha sempre tirato fuori delle prestazioni sensazionali come in semifinale a Santiago del Cile contro l'Università del Cile, ha la possibilità di ribaltare questo risultato. Un gol dovesse finire il primo tempo sull'1-0 per la Chivas di Guadalajara, la situazione sarebbe assolutamente 50-50, al di là del fatto che poi, tu lo sai molto bene, il Beira-Rio è uno stadio che trascina, è uno stadio che insomma gioca il suo ruolo in una partita del genere. Io credo che insomma l'Internazionale sia chiaramente favorito, primo perché ha fatto il risultato all'andata, secondo perché è una squadra più forte rispetto alla Chivas. L'Internazionale ha una squadra completa, competitiva, e sarà un osso abbastanza duro anche in ottica mondiale per club. Però insomma la partita è aperta, anche perché la Chivas stanno nascondendo un pochino le carte, però hanno recuperato Medina, che è un giocatore piuttosto importante, sì, per il loro schieramento. Per cui scenderanno in campo con un centravanti più tre mezze punte. Cercheranno di alzare il ritmo in ripartenza, ed è una cosa che l'Internazionale potrebbe soffrire, perché ha due difensori centrali piuttosto macchinosi, Bolívar e Indio. Per cui questa mobilità che la Chivas riescono a dare in fase di ripartenza, senza punti di riferimento fra le mezze punte che si scambiano molto di posizione, con un attaccante come Bravo, che è molto bravo, a svariare, potrebbe creare delle difficoltà. Io credo che la Chivas abbiano la possibilità di segnare al Beira-Rio, e se segnano per prime la finale diventa veramente molto molto interessante. Infatti tra poco parliamo proprio dell'Internazionale, anche in prospettiva mondiale per club, delle sue caratteristiche. Ha accennato quello che è probabilmente il punto debole principale, ovvero la difesa nei due centrali, ma ci sono anche molte caratteristiche positive da valutare. La cultura sportiva si vede con la Championship inglese rispetto alla nostra Serie B. In Inghilterra ci sono squadre come Leeds e lo stadio è sempre pieno, dice Lori da Lodi, e condivido pienamente. Stadi molto più belli anche rispetto a tante della nostra Serie A nella Serie B inglese. Mentre è rimasto ed è con noi ancora per qualche istante Stefano Borghi, che ringrazio, collega di Sport Italia. Tra un attimo un'ultima domanda anche da parte di un ascoltatore che credo coinvolgerà anche te, Stefano, all'800 24 00 24. Vorrei chiudere prima però chiedendo ancora un attimo di attesa ad Andrea se ci sono appunto dei motivi per cui l'Inter deve temere l'Internazionale, e se secondo te questa squadra che arriverà al Mondiale per Club, che giocherà come l'Inter prima una semifinale, la grande favorita per arrivare alla finale da tutti attesa e auspicata, è una squadra più forte, simile, più debole rispetto a quella che ha battuto il Barcellona nella Mondiale per Club del 2006. Questa è una domanda abbastanza difficile, nel senso che l'Internazionale del 2006 era una squadra veramente molto forte. Secondo me quella è una squadra che tutto sommato meritò di arrivare sul tetto del mondo. Poi la partita col Barcellona fu particolare, però quella era una squadra forte. È una squadra che ha dei punti di contatto con quella del 2006, non solo perché qualche interprete è rimasto, soprattutto rispetto alla Libertadores del 2006, ci sono ancora Sobi, Stinga, Bolívar. È una squadra che gioca più o meno in maniera simile, nel senso che il modulo base è un 4-2-3-1. Io credo che possa dare fastidio all'Inter nella misura in cui l'Internazionale sa adattarsi bene all'avversario e sa portare l'avversario sul proprio terreno, esattamente quello che fece nel 2006 con il Barcellona, quando, se non ricordo male, Abel Braga mise a giocare larghi Yarley e Pato, creò una zona nel centro del campo e riuscì a vincere la partita in contropiede. Questa è una squadra che ha più o meno le stesse caratteristiche, si adatta all'avversario e lo porta sul proprio terreno di gioco. Poi ci sono dei giocatori diversi, allora al Mondiale per Club c'era Pato, oggi c'è Tyson che potrebbe essere più o meno lo stesso giocatore, un grande talento che proprio Celso Rotti, il nuovo allenatore, è riuscito a rilanciare perché sembrava un po' perso. C'è Giuliano che è bravissimo. C'è Giuliano che è veramente bravo, infatti oggi leggevo un articolo sulla stampa brasiliana, perché Giuliano andrà in panchina questa sera e ci si chiede come mai il miglior giocatore della squadra in Libertadores vada in panchina per un appuntamento del genere. Entrerà per segnare un gol decisivo come ha fatto come sempre, tutti gli altri turni. È quello che ho pensato anch'io, è comunque un ragazzo di 20 anni che ha dimostrato che al momento entrando dalla panchina può essere veramente devastante, però credo sia uno di cui andremo a sentire parlare parecchio in futuro. Stefano, e poi vorrei sottolineare proprio velocemente D'Alessandro. D'Alessandro è l'uomo squadra di questo Internazionale. Lì hai vinto la scommessa con me. Sì, esatto, l'ho voluto sottolineare per questo. Sì, sì, è vero, effettivamente a livelli altissimi, come ai primi tempi del River, quando poi andò al Wolfsburg, ancora più essenziale probabilmente. Ti lascio e ti saluto con un'ultima domanda che credo coinvolga anche te, appunto, di Andrea. Buon pomeriggio, prego. Buon pomeriggio, innanzitutto complimenti. Grazie, dica. Le volevo chiedere su un giocatore come Bellamy, che negli ultimi anni ha fatto direi discretamente. Ho letto l'altro giorno che andrebbe in Championship a giocare. Mm-hmm. E a me sembra un giocatore onestamente ancora valido per la Premier e non solo. Tutto qua. Va bene, Stefano Borghi, grazie a lei Andrea. Stefano, cosa pensi di questo Bellamy? Io sono d'accordo, Bellamy è un giocatore che per talento potrebbe stare su qualsiasi tipo di palcoscenico. È chiaro che poi anche lui, un po' come D'Alessandro magari, ha un carattere un po' particolare, però ha voluto a Cardiff. Questo testimonia secondo me anche quanto comunque è appetibile il campionato di Championship e quanto ci sia un sistema molto più evoluto in Inghilterra rispetto da altre parti. Un giocatore come Bellamy che sceglie di andare in una squadra di Serie B, tra l'altro non fra le favorite principali del campionato, anche se l'anno scorso è arrivato in finale dei playoff, è un Cardiff, no? Il Cardiff, esattamente, lui è gallese, è tornato a casa. È lo specchio, secondo me, di quanto si sia lavorato bene da quelle parti. Non solo Bellamy, come dicevo prima, a Middlesbrough è andato Chris Boyd, che era il centravanti dei Rangers di Glasgow. Questo è un campionato di alto livello. Io sono molto felice, chiaramente, che Bellamy sia andato al Cardiff, perché insomma è un giocatore che mi è sempre piaciuto molto e che commetterò volentieri. Però credo che proprio la chiave di questi trasferimenti sia da ritrovare nello sviluppo e nell'immagine che comunque dà questo campionato, perché è uno dei campionati più seguiti al mondo, nonostante sia una seconda serie. Ci sono tantissimi nazionali. Io mi ero stupito qualche tempo fa, il Reading, una squadra di medio-bassa classifica, ha in rosa l'anno scorso, adesso quest'anno è un po' cambiato, comunque l'anno scorso aveva in rosa 15 nazionali. Nella nostra Serie B è un po' diverso, no? Anche se credo che non sia il caso di dire copiamo il sistema, è proprio tutto diverso. Senti, vai a farti un riposino di pomeriggio, così sei pronto questa notte per eventuali supplementari anche fino alle 5:30-6. Guarda, dopo l'esperienza della mia prima finale, quella fra Fluminense e LDU, quando uscì che erano le 6:30 passate, perché la Comebol ci mise tre quarti d'ora dalla fine dei rigori alla consegna della Coppa, sono pronto a tutto. Bene, in bocca al lupo, buona serata e buonanotte a Stefano Borghi, a presto, grazie. Crepi il lupo, Massimo, alla prossima, grazie a tutti, un saluto agli ascoltatori. Grazie a Stefano Borghi che questa notte racconterà International Porto Alegre, la Chivas Guadalajara, finale di ritorno della Copa Libertadores 2010 con i prossimi rivali dell'Inter al Mondiale per Club a dicembre. Rapidissimo, Gabriele da Macerata in chiusura, poi parliamo di motori, c'è anche Lorenzo da Roma in attesa. Rapidamente, Gabriele, sì, prego. Sì, ciao Massimo, senti, io volevo fare una precisazione sull'intervento della signora di Roma su Adriano. Io volevo dirti che sono d'accordo con te, che è molto più difficile adesso. Sentiamo malissimo, Gabriele, mi dispiace che eri d'accordo con me, mi davi un po' di appoggio. Sentivo malissimo, proviamo a richiamarti. Lorenzo da Roma, buon pomeriggio, anche lei di Adriano vuole parlarmi? Lorenzo da Roma? Non ce l'abbiamo, abbiamo perso anche lui e dunque siamo quasi pronti per parlarvi di motori, se non riusciremo a recuperare rapidamente questi due ascoltatori. C'è chi mi chiede anche se la Samp farà risultato, 2000 tifosi, è vero, c'è un grande entusiasmo, mi sembra addirittura, di tifosi che hanno accolto già la squadra all'arrivo all'aeroporto ieri in Germania, cose che si sono viste, si vedono molto raramente sui campi europei per squadre italiane che vanno a giocare partite all'estero in Champions e anche in Europa League. Domani sera grande, fenomenale entusiasmo anche a Palermo e a Napoli per la Europa League, che seguiremo naturalmente con voi domani e poi anche domani sera su Mediaset Premium Calcio. Dunque non c'è tempo di recuperare i due ascoltatori precedenti. Vedremo domani, magari, se avremo tempo e spazio per loro. E dunque, i motori. Eni vi presenta Sport e Motori. Sport e Motori, appuntamento quotidiano all'interno di A Tempo di Sport. Naturalmente in attesa del weekend di gare c'è ancora tanto fermento e tanto entusiasmo per il passaggio di Valentino Rossi alla Ducati. Queste sono le valutazioni di Giacomo Agostini. Credo che sia stata una decisione molto sofferta, perché Valentino stava bene alla Yamaha, ha detto che avrebbe terminato la carriera lì, però si vede che sono subentrati altri fattori e ha preso questa decisione. Direi che insomma, le moto oggigiorno, la Ducati, la Yamaha, la Honda si equivalgono, quindi non ci sarà una grande differenza. Forse la differenza la farà lui e la Ducati, nel senso che aiuterà gli ingegneri nella messa a punto, perché lui effettivamente con tanta esperienza e tanti campionati del mondo che ha vinto potrà suggerire qualcosa. Valentino Rossi, suggeritore e anche collaudatore dunque della nuova moto, con la possibilità di dare un impulso ulteriore come ha fatto in maniera sostanziale già ai tempi del suo approdo alla Yamaha. Ma ci sono le possibilità, secondo Giacomo Agostini, che Valentino Rossi possa essere di nuovo campione del mondo con la nuova moto? Credo di sì, perché Valentino insomma è ancora giovane, non è che il nostro mestiere si finisce molto presto, è ancora tanto giovane, però dico lui ha solamente 31 anni, quindi io penso che 2 anni ancora li può fare ad alto livello, quindi io sono convinto che già le prime gare lotterà per la vittoria. E naturalmente, certo, pensare al campionato del mondo, a dirlo oggi è molto difficile, in quanto ci sono questi ragazzi giovani che scalpitano e che non hanno tanta reverenza, però insomma vedremo senz'altro delle bellissime gare. Valentino farà di tutto per vincere, per non perdere la sua sfida, e quindi darà sempre, come sempre ha dato, il 100%, e per noi che vedremo sarà uno spettacolo. Questo era Giacomo Agostini. Da Gazzetta.it abbiamo raccolto questo contributo e le sue valutazioni sul passaggio di Valentino Rossi alla Ducati. Siamo riusciti a recuperare Gabriele da Macerata prima di salutarvi, dunque spazio a lui. Prego, Gabriele. No, niente, volevo appunto dire che è colpa dell'Inter, perché Adriano è così, insomma, Adriano purtroppo l'Inter l'ha trovato così, insomma, quindi per la Roma è molto difficile. Poi se è sopravvissuto non è colpa dell'Inter, quindi anche per questo è molto più difficile Adriano a Roma adesso, quindi sono d'accordo con te. Sì, ti ringrazio. Effettivamente sì, è vero che non è colpa dell'Inter se è sovrappeso adesso, e in parte è vero che l'Inter l'ha trovato così, e anche è vero che l'Inter, come è successo con altri giocatori, ha sempre avuto un'attitudine notevole ad acquistarli e a valutarne le grandi qualità e il talento, non altrettanto in passato soprattutto è riuscita a gestire il talento e l'esuberanza di questi giocatori, e dunque lì qualche responsabilità il club nerazzurro l'ha avuta nella gestione di Adriano. Per quanto io continui a pensare che se un giocatore non riesce a rendere al massimo e ad essere gestito nella maniera migliore per lui e per il bene della squadra da José Mourinho, o in precedenza negli anni passati quando era al top della sua carriera e della sua brillantezza di gestore di talenti, di campioni, Fabio Capello, se un giocatore non riesce a emergere con una guida del genere, poi è molto difficile che possa farlo con altri, perché sono due tecnici che è vero pretendono molto, sono molto esigenti, ma sono anche molto abili e sono capaci di trarre il meglio dai loro migliori giocatori, perché ai due allenatori, Capello e Mourinho, è sempre interessato soprattutto vincere, e i grandi campioni li fanno vincere. Speriamo che questa sera Cassano sia un campione che aiuta la Sampdoria. Noi vogliamo evocare una grande notte europea per la Sampdoria, non ricordando tanto l'avventura nella Champions del 1992, ma quella del 9 maggio 1990, Stadio Ullevi di Göteborg, la finale della Coppa delle Coppe vinta sull'Anderlecht. Così raccontò Bruno Pizzul, così noi vi lasciamo con le note anche del coro tradizionale dei tifosi blu cerchiati, uno dei cori tradizionali, sulle note di Rino Gaetano, il cielo è sempre più blu al Ferraris. Grazie, a domani, buon pomeriggio da Massimo Callegari, grazie a Marco Lombardi, redazione Fabio Cantadori in regia, a presto su Radio 24. Signore, ascolto, buonasera, siete collegati in diretta con lo stadio Ulevi di Göteborg in Svezia, dove è appena cominciata la finale in gara unica di Coppa delle Coppe tra la Sampdoria e l'Anderlecht. La Sampdoria schiera Pagliuca, Mannini e Carboni, Pari, Viarcobud e Pellegrini, Catanez, Invernizzi, Vialli, Mancini, D'Assena. Tenta di andare via Lombardo, sguscia molto bene sulla destra, da poi al centro per Mancini, la palla per Sanza, lo tiro, palo, incredibile! E poi gol di Vialli! Va sulla destra Mancini, Lombardo da centralmente, assalzano, salzano, taglia da quest'altra parte su Mancini, in penetrazione Mancini, parte il cross, gol! E gol ancora di Vialli, gol! Gianluca Vialli, grande azione della Sampdoria! Tempo di sport.